Ciao già, buonasera. Allora, non sei uscito tu? Niente, stavo lavorando, sono a casa adesso. Quando lavori più è dura uscire, e vabbè. Se vai riposo un altro giorno, là. No, non sto facendo bene tu o stanno facendo gli sci? Facendo bene io, non ho friendi, sì. Qualcuno che sta facendo l'uguale. C'è qualcuno col bip, ma è lontano. No, io sento gente. Sento gente che sta facendo una voce camuffata. Parlando così. Ma che sta già lì? Ciao. Allora oggi lavorato. Oggi ero il turno. Ma come io che questo problema me ne giocava del mare? Ui. Troppo bene si sta in pensione. Ah già, tu sei in pensione, è vero. E vabbè. Già ne ho tribolato anch'io. In pensione però un giorno uguale all'altro. No. Non ci sto neanche pensando. Lo so, ma vabbè, io ho le mie cose da fare, a me mi passa la giornata ma come la vivi. Me le devo girare. Ma io in pensione non sto neanche pensando. C'ho i miei hobby, i miei passatemi, le mie cose da fare, i miei problemi della casa, eccetera. E già va bene così. Ma te vuoi ancora trovare o proprio in pensione? No, io mi stanno già pagando. Ok. Quindi proprio pensione. Questa che sto prendendo è una pensione di validità, poi devo prendere quella di vecchiaia. Quella la prenderei a 67 anni. No, la prendo prima io, a 62, perché c'ho 5 anni di scivolo. 5 anni di scivolo? Ma dove vuoi questi 5 anni di scivolo? L'80% di invalidità. Ho capito. E quindi ho già fatto la domanda per quella di vecchiaia. Adesso fra poco, se me la concedono me la danno fra poco. Andare. Va benissimo. Per il momento c'ho questa. Vabbè, dai, non è. Sto bene lo stesso. Con 1.500 euro al mese già sta bene. E di più, perché c'è anche la liquidazione. Ma la liquidazione finisce. Lo so, ma sì, da quando mi danno l'altra la liquidazione ce l'ho, perché per 2 anni che mi dura. Come 2 anni? Non ti hanno già liquidato? È una scelta mia, mi sto facendo dare un tanto al mese, di modo che non mi disputare, capito? Mi stanno dando un tanto al mese. Allora, va bene anche a me. Ok. Ha preso un accordo con l'azienda, va? Sì. Qualche volta potete darti insieme e ti risultano, invece così ti regoli. Non ti risultano? No. Ma infatti ho risultato, vuoi dire vai, ti segna. Cosa oggi? Abbassate la pelle ai 3/4 sul microfono. No, non posso sollevare niente, no. È così, il microfono mica non posso regolare. Ma il macchinese si sì. Io non ho mai toccato niente, è sempre stato così, non ho toccato niente. Vabbè, lascialo così. Perché rimbomba? Rimbomba, è sempre stato così, non ho mai toccato niente. Aspetta che l'abbassi il volume, parla. Stavamo dicendo che a quest'età cosa te ne fai tutti quei soldi? Non ho capito. A quest'età cosa te ne fai tutti questi soldi? Come cosa me ne faccio? Io ho 2 figli. E appunto, se avessi fatto la liquidazione tutti assieme, se avessi comprato gli appartamenti a tuoi figli. Ma già ce l'hanno i miei figli, non c'è problema. Qualcosa gliela do anche a loro. Qualcosa, tutto lì devi dare, ora devi dare tutti vicini là. Sì, tutto. Così ho campo d'aria. Tu c'è la pensione. Vabbè. Mai dire mai, qualsiasi cosa ti può servire. Cosa ne so, come fa la vecchiaia, come vanno le cose. Bisogna sempre pensare anche a queste cose. Tanto c'è la pensione tua, tu sei a posto. Cosa basta la pensione? Sta scherzando, non basta nulla una pensione. Se devi andare a qualche istituto, qualche cosa, non ti basta questo della pensione. Ti metti una badante in casa, le dai vitto e alloggio e ti accampare. Ma so quanto vuole la badante, il minimo sono 1.200-1.300 euro, tu la devi assicurare. È una spesa, ma non ti credere che sia poco. Certo, ma è dopo una volta che si è vecchio e decrepito, non serve più a niente, da te ne fai tutti questi soldi. te la bavaglia, te la paghi, ti fa la spesa, ti lava, ti curica, insomma, ti tiene bene, dai. E grazie a Dio sono ancora sufficiente a fare tutto. Non c'è bisogno di badare. Io la compagna, quindi. Vabbè, non dico adesso no. Vabbè, se la compagna vabbè. Vabbè, certo. Cava grava. E tu sì, di nuda? No, io niente. Non è voi? No, io tanto me ne sto andando alla Sardegna tra un po'. Ma vabbè, è tutto un casino. Non si sa dove dovremmo finire, tutti questi terremoti, queste cose. Boh, mai sentito nella tutta questa roba? Uragani, terremoti, e ve ne poche di roba in giro. Oramai tra un po' ho ucciso mia moglie. Mi prendo la quota del mio lavoro, mi prendo la ristorazione e me ne vado via da qua, me ne vado in qualche isola tranquilla, tanto in Italia non arrivi più a niente, tra un po' ti danno la pensione a 90 anni, devi lavorare fino a 90 anni. Ma ti tocca la pensione a te? A 90 anni. Ma va. E tu sei a conto tuo, quindi te ne puoi andare come vuoi. Io non sono a conto mio, è che purtroppo la pensione, come ti portano correndo, la vedrai a, perlomeno io ti ripeto, la vedrò a 90 anni. Beh, se continuano così le cose, non c'è nessuno che avesse contributi, la vedo scura. Allora, prima che andavi a fondi, io me lo riormeggi, mi calo per primo con la scialuppa. Cava. E vabbè. E comunque, ognuno si arrangia come può. Se puoi lavorare sino a 90 anni, ben venga, vuol dire che c'ha le forze. Non ci penso proprio a lavorare, magari fino a 60. Non ci penso proprio. Largo ai ragazzi giovani, capito? Che non sono vecchio, che vuoi essere un po' più giovane di te. Vabbè, io sono da 59. E allora sì, sono molto più giovane di te. Io ho proprio 62 anni, 38, il 20 ho troppo, è vero, quindi. No, io devo fare 48 a ottobre, il 12. Vabbè. Poi dopo i 50 ancora, no? Sì. Ma già sei giovane, ancora ne hai. E hai ancora da guidare. Poi lascia fare. Che tu un coglio tu dico, trovo l'inghippo. Guarda che stiamo lottando per farci dare la congiura. Vabbè. Poi ci avete anche gli utili, no, a fine anno. Sì. Se non c'è qualche mezzo da comprare roba del genere, vi fate l'argento. Va bene, dai. Molti siete nella cooperativa oggi? 30 persone. Ma ci sono quelli che soci, siamo tutti soci. Però ci sono i soci maggioranza e minoranza, nel senso che ci sono quelli che hanno la quota più alta. Io sono uno di quelli che ha la quota più alta, siamo in tre che abbiamo la quota più alta. Ah, ecco, vabbè. Sì, sono come tutte le società, è così. C'è chi ha la quota più alta, quello che ce l'ha. Ci sono quelli che hanno l'1%, ci sono quelli che hanno il 35%, 40%. Quindi. Anche nella nostra ditta era così, nella ditta dove lavoravo io ci avevo la quota più alta perché ce l'aveva più piccola la quota. E vabbè, e cosa vi va? E si è messo bene allora. C'è un miglioramento. Per quanto riguarda il lavoro e poi per quanto riguarda il camper, lo saprete. Per quanto riguarda il camper? Stai girando? Sì, lavoro permettendo, sì, abbastanza. Vabbè, come ti trovi con questo nuovo? Tutto un altro mondo, bellissimo. Tutto un altro mondo, bellissimo. Diciamo che magari per gli spazi hai più problemi perché è più grande, là. però se vai, se vai dove ci sono quelli organizzati, gli spazi, non hai nessun problema. No, io problemi di spazio non ho mai avuto fino adesso, assolutamente, anche perché mi infilo in ogni buco, non è un problema. No, è perché è più grande, mi sto dicendo per questo. La larghezza è quanto è l'altro, la lunghezza è un po' più lungo. Vabbè, certo, la lunghezza è, si vede che è più grande. Anche l'altro era bello, l'altro io l'avevo visto, ce l'ho trovato anche adesso, te lo dico. Sì. Beh, no, l'altro era un signor campo, l'altro era 10, ma questo è 20, questo è proprio un'altra, un'altra cosa, un'altra dimensione. Vabbè, tu per due persone ce l'hai, una voglia. Queste sei persone vivibili dentro, ci vivi alla grande. È più spazioso, no? È già bello così. Se ne vai in giro. Questo l'altro giorno quando ieri era a Capocaccia. Cos'era gli antivibili in campo? Tutto pieno di macchine, e siamo a settembre, pieno di macchine di camper. Camper ce l'era a Magogo. Già so, siamo invasi dai camper, siamo invasi. Perché la gente ha capito che col camper vieni dove vuoi, non vai sempre fermo allo stesso punto, vai dove vuoi, capite? Va bene. Poi quello lì deve essere, diciamo, come tecnologia deve essere avanzato più dell'altro, diciamo, come tecnologia interna, eccetera. Sì, va bene. Più avanti, molto più avanti. Diciamo che io segnale non te lo posso dare giusto perché lo smitter che non mi va bene, però stai, diciamo, ti ascolto, dai, ti ascolto, quindi sarai 7 di segnale, dai. Io come ti sto arrivando di Alghero? Sento avanti Eugenio, lo senti Alghero? Sento un borbottino, non mi muovo manco lo smitter, non penso che lui mi senta, comunque. Buonasera. Con chi stai parlando, Mirko? Con Alghero o con Sassari? È Gianni Doppio Rum quello che ti ha risposto. Quello è Gianni Doppio Rum. Comunque qua ti arrivano a Santiago 9 come sempre. Vabbè, purtroppo con un cervello è così. Ciao Eugenio, ciao Gianni, buonasera. Ciao cara, buonasera. E allora? No, io no, sento un borbottio, non riesco proprio a tirarlo fuori, non riesco a capire neanche cosa dica. E io, Alghero, Santiago 9 qua arriva come sempre. Sono favorevole anche sempre ad Alghero da questa zona. Va bene, va bene. E che si dice? Si dice niente. Un po' stanco, ieri abbiamo fatto un po' di balduria. C'erano gente, c'era sempre Alghero, altri amici e Ucciso Capizzi. Sono stanco morto. Avanti già. Sì, io ero in giro in quella zona. A Pocaccia, a Portoferro, sono andato un po' in giro ieri. Era tutto pieno di turisti ancora, tutto pieno di gente. Beh, sono i settembrini ancora in arrivo, ancora ne abbiamo appena 5 oggi. Adesso sino a fine mese, davvero è tutto pieno di gente. Va bene, va bene. E allora, genio, che si dice, che si dice? Ma siamo a bello Gucci. No, ho fatto un turno strano, sono stanco. Oggi proprio non ho giocato da nulla, sono stanco. E sono a casa, adesso non so se dovrei uscire. La voglio, se voglio uscire per una volta ci facciamo giro, ma non rientro tardi, sono stanco. Neanch'io, la mattina poi c'era roba da fare, roba da finire. Di notte abbiamo fatto tardi, diciamo, abbiamo mangiato un bel bevuto, diciamo, avevamo un po' di persone, così ho fatto, quindi oggi gioco un po' come la madama. Va bene, una volta alla settimana che si può fare. Mia figlia è Alghero oggi tutto il giorno, si è andata lì a Fertiglia con il ragazzo, a casa di che c'è mamma, anche se bisognava andare a casa, ma ancora apri un po'. E mi ha detto che c'era un bel po' di gente, anche a Fertiglia, ho fatto un giro lì a Lazzaretto, dice che è tutto pieno, vabbè. La gente sta continuando a sbarcare, quindi voi sceso la Spagna stamattina, come è sceso sulla Civitavecchia stamattina. Poi adesso ci sono quelli di settembre, no? Si fanno le ferite di gente. E comunque va bene così, dai. Contro esolo? Contro esolo è quando rientri dalle vacanze. Contro esolo? Settembre, diciamo, quindi fanno le vacanze a settembre perché costa di meno, capito? C'è meno flusso di gente, le spiagge sono più libere, gli accessi sono più liberi, i costi sono più bassi. Cosa devono fare? Tanto ad agosto non ti puoi muovere, dove vai? Ma sì, adesso arriva la gente più anziana, magari quei pullman che si arrivano, che si arrivano a Platamona, scendevano tutti quanti in greffa, facevano la spesa, e quei pullman due piani che c'è il tubero di inglesi, di gente di fuori. Beh, quelli sono, io mi ricordo quando lavoravo che c'avevo la zona dell'Isola Rossa, Badesi, Tritaragù, tutte quelle zone lì, Vignola. L'estate era un casino, ci mettevo più da Santa Maria Coghina per arrivare a Trinità d'Agulto che da Santa Maria Coghina da Sassari, guarda, e c'era un traffico allucinante, gente che andava, tornava, sai, uno che lavora durante la settimana e c'è tutta questa gente a mezzo ai piedi, è un casino. Lo so, non ho vissuto, quindi lo so, allora c'è la biglia di luci. Di quegli artigianali, di quegli a quattro gusti, più la panna non passa, anche per farmi, la giù più gana. Ehi, ne ho mangiato due, dici, mamma mia, le vaschette piene, poi abbiamo fatto una propria gelata, sto cercando capisci. Ho mangiato un po' di insalata e due avanti proprio di ieri, io, a pranzo, e stanotte non so neanche. Ci prendiamo una pizza o qualcosa, non lo so, quando rientra mia figlia vediamo. Lui, KK, va bene. Mirko, sei qui o hai già chiuso? Vabbè, tu sei di Alghero, anch'io sono di Alghero, quindi i miei mi informano sempre, proprio ieri mia sorella è venuta qua a casa, perché mi ha detto che c'era un casino nero ad Alghero, e quindi se ne sono scesi qua verso le 5, se ne sono andati che era una di notte, l'una, più l'una era. Ah, è Mirko Visu di Licia. Eia, Mirko Licia, sì. Ma Licia mi ha lei? Eia, Licia a lei, a lui. Io ci arrivo a Alghero, a me mi sente qua. Ciao Eugenio. Ciao Luca Nicomi, buonasera. Allora, a posto? Mi è rientrato tipo 20 minuti fa dal mare, là. Cioè ci stava bene, là. Non è più come... quanti posti di agosto, luglio e agosto, però ci stava benissimo, c'era caldo, ciao anche a Gianni, riprendi anche a me. Ehi, a Mirko, lo senti a Eugenio, la produttore, se no solo a me e a Gianni senti, quindi basso ti sente Eugenio. Ehi, anche io sento un borbottio. No, io per Alghero sono proprio out, sono fuori, non riesco a passare. A me non ha cambiato assolutamente niente. Sassari mi arriva forte, certo non come prima, comunque i segnali sono abbastanza forti questi, ma tutte le altre zone le copro la grande, anzi mi si è aperta anche un po' di più la zona del mare. E KK, avanti Gianni, per il Vella, sempre a mare. Io mi ricordo che quando c'era la buonanima di Pinangelo riuscivo da lavorare. Parlavo da stesso di Bidriatti con lui, ha detto che era difficile che vi arrivasse la portatore, spero che mi sentiva. Sì, vabbè, Finangelo già lo serve, abitava una bella zona, quella tutta aperta, quella alto, proprio di fronte, fuori da Alghero, perché lui è lì alla Pietraia, c'è cioè proprio portatore, se Sassari ce l'hai davanti, ma se sei all'interno, Mirko è un po' chiuso. Sì, ma Montana, se torna a campagna sei Mirko tu, infatti me lo immaginavo, lui è coperto, da una campagna, capito, quindi non è come stare in città e poi dover appinaggio, ti ripeto, sono molto aperto, tu immagini che appinaggio non è liscio, mi arrivava a 9 più 10, figurati, e poi almeno come si chiama, non lo ricordo più, però anche lui arrivava molto forte. Va bene, avanti. C'era quello di Alghero che prima arrivava forte, lo sentivo bene, Valerio penso che si chiama. Intanto la nostra casa di Alghero sono sempre con le antenne, una traversa del lungomare, ci sono delle antenne, c'è anche la Manso ancora. E quello è un rimattore, non è un CB, il CB è anche un rimattore. Sì, è dietro via Europa, diciamola. Io lo so, lì c'è la casa mia nipote. Va bene, sì, Valerio, proprio Valerio, non mi veniva il nome. Valerio non si è più sentito, intanto ci sentiamo al telefono, ma sono andato a lo sento. Però arrivava molto molto forte, e anche lui è una zona molto molto aperta. Avanti già. Ah, Valerio Legale. Ma non c'ha più, ciao Luca, non c'ha più nulla Valerio. Sì, che ce li ha tutte le radio. È che è un periodo che non è stato bene, poi vabbè per il Covid, poi si è un po' stufato perché non c'era mai nessuno. Parlare con Sassari, chi arrivava, chi non arrivava, allora non so, così mi ha detto, così ti sto dicendo, però già c'è tutto ancora, anzi mi aveva proposto a me se mi riprendevo, ti avevo dato un amplificatore grosso io, ho detto che no, non me ne facevo niente perché c'ero, ce ne ho due, sono dentro la scatola, così era il mio negozio, un amplificatore mi ha fatto. Luca, va! Ah, voglio la gamella, cara! Eia, allora. Ehi, mamma mia, ho messo. Vabbè, stanco, stanco al mare, mamma mia, che faccio più piana. Speriamo che inizi a fare acqua di rotto, così vado a farmi anche un po' di scorta di lumacchio. Perché questo inverno devo farle per forza, Luigi. Ma non sei a casa tua? No, sono la 25. Ah, ok, vabbè. È perché questo segnale che è bassissimo. Però già ti sento, pure tu arrivi, segnale 1 qua. Ma ti ascolto, non c'è problema. Prima ti sentivo. Però devi capire che io ho l'antenna del terrazzo, Il caso già l'ha vista, te l'ha vista, mi ha dato la mano a sistemarla. E va bene, dai, va bene. Poi ho coperto dei palazzi, no, cla, è anche un miracolo che sta uscendo. Sì, l'altro giorno, Gianni, l'altro giorno è entrato Falco 2, una cosa del genere. Ufo 2 a Falco 2, no, ho sentito io. Lupo blu, lupo grigio, così era. Lupo grigio, sì. Ma c'è sempre, sì, sempre la terrazzina pura. E allora? Gli avevo buscato un alimentatore da 50 ampere, gli stavo dando un po' di roba, ma a quanto pare l'antenna non ha ancora avuto e non ne vuole sapere di mettere, perché adesso c'ha un barattino, c'ha un bel alimentatore, anche se switching da 50 ampere, c'ha un po' tutta l'attrezzatura per poterlo fare, gli manca solo l'antenna e l'antenna c'ha una mini turbo, la usa sia in macchina che nel terrazzo. Già, da quanti ampere è quell'intec che c'hai tu? Cosa? Da quanti ampere è quell'intec che c'hai tu? 35. Ah, ok. Va bene. Ehi, vabbè, ma cazzo, l'antenna la può mettere, lui è sempre fissato, questo condominio, questa cosa, e qui e là, ma un'antenna la può mettere, ma cosa ne fa? Non c'è la concessione, mette un'antenna che non disturba, ce ne sono antenne senza radiali, cosa? Vabbè, lui continua a fare quello che qua arriva, ma arriva a segnale 2, se c'ho QRM non lo sento. La sua paura è quella di avere problemi col condominio, capito? Perché dice che lì c'è un po' di maretta, di cose, quindi non vuole stare buono. Se non può avere più problemi così, andando al terrazzino con quell'antenna, non è di turba più con quell'antenna che con l'antenna sopra il tetto, capito? Qui non ci arriva per niente. No, a casa già lo sento, dai, però è a due passi da casa, perché lui è San Francesco, io sono qua al mondo. Quindi già lo sento, dai, però non è fortissimo, ecco. Il speciale qua io non lo sento, assolutamente, vero. Va bene signore, io vi lascio che devo uscire, finalmente mi mangio un bel gelatone. Ciao a tutti. tutti, ci sentiamo magari domani. Ciao. Colosone, ciao ciao, ci sentiamo, buona passeggiata. Ciao, ok, ci sentiamo, le croce, vai Luca, si è spostato a fare la croce. Mirko. Ciao, ciao Mirko. Ciao, ciao Mirko, alle prossime ci sentiamo, là. Sì, mettila bene l'antenna e già funziona. Anch'io fra un po' vado a dare una annaffiata. Ma tutti i giorni annaffi? Sì, ho le rigature, facendo le rigature. Ho fatto no, mi hanno fatto l'impianto irritecnica, perché sto facendo il tratto inglese, quindi devi innaffiare tutti i santi giorni. Capito? Se non piove, poi forse devi innaffiare, se non cresce. E Filippo, contento è il campare? Sì, contento di giuro, a pezzi si sta facendo, a pezzi, sempre lampada nell'erba, sempre lì, poi entra, poi esce, poi entra, poi esce, mi adesso nella porta che vuoi uscire, va, si scolica un po' al sole e poi rientra dentro, poi si scolica al sole, poi rientra tutta la città. Fai bisogni, io c'ho una, le buste quelle adatte, no, te le conosci, vedi, quando sforca, raccolgo e metto la bottoniera, quella mattina butto via tutto. No, sta bene, sta bene, ma sta bene lui e stiamo bene anche noi, perché è indipendente, capito? Noi l'altro giorno ci siamo andati a cena fuori, come fratello, tutti, ho lasciato la porta del Carrillo aperta, ho messo la brandina lì, se ne stava un po' lì, poi mi ha detto il mio vicino che lo faceva, si coricava nel prato, poi c'era andava la brandina. Non è più dentro l'appartamento, capito? Ciao Vito, arrivi tu. E siamo ambientato subito lì, Claudio? Purtroppo no, già, purtroppo no, un mesetto ci è voluto, un mesetto ci è voluto ambientarsi come adesso, però prima dovevo mettere le guinzaglie o portarlo in giro, noi abbiamo un altro terreno sotto, capito? Volevo uscire a guinzaglio, poi ho iniziato a puntare i piedi, quando volevo uscire avrei detto no, mi guarda il giardino, sei libero, esci qua e fai qua. Ho iniziato a annusare, a fare, facevo la pipì, poi gli altri bisogni, infatti ero anche preoccupato, ho chiamato il veterinario, mia figlia gli aveva detto no, non c'è problema, andiamo a vedere un blocco intestinale, quando se lo sta facendo già la fa, e infatti lui ha fatto, ha iniziato piano piano, una volta, due volte, adesso la fa anche due, tre volte al giorno, non c'è nessun problema, oramai si è ambientato bene, e poi è padrone della casa, entra, esce, salve sulle stanze, capito? Quando io sono in radio, sono in radio, che sia in radio, non sono in radio, lui viene sicuramente sotto la scrivania qua. Perché lì si sentono spesati un po', capito? Bastano due settimane così e si riprendono subito, già si abituano. E adesso gli sta bene, mi viene il male, guarda, va la pompa, via. Ma tu il cane lo porti al veterinario? No, non è pieno, al calcolaio lo porto. Ah, non lo porto al veterinario? No, al calcolaio lo porto a fare le scarpe. E poi... quando c'è inizia un po' il freddo metto la tapparella li metto, è un pugno di per fare l'uso palco, un pugno di giodi. Allora, stamani l'avrei preso con una cosa che la ricorda quando lavoravo, che proprio il camigliere ladro. Sono entrato nella, io c'ho un'altra stanza grande, che è dietro il casino, ancora non è finita e la sto usando come ripostiglio. La porta non era pronta, ma non messa da poco. Deve essere entrato un topo. E si è entrato dentro, ci ha fatto un video dentro alle. E c'ho delle scatole in cartone con roba che non uso, eccetera, adesso l'ho portata tutta via e l'ho portata a Sassari in Massata. E stamattina sono entrato, mia moglie è entrata a prendere roba e a mettere la lavatrice in funzione, una puzza, cazzo. Agli italiani c'è sede, no? Ci ho avvicinato la cassetta, non si poteva stare, l'ho presa, l'ho portata fuori, c'era troppo morto dentro, perché avevo messo già la medicina, io capito, si è preso la bustina e se l'ha portata dentro la cassetta ed è morto, facciamo fatto gascetta e tutto. Mamma mia, per carità. là ti conviene attrezzarti di medicina, perché in campagna purtroppo ci sono, Non so, pazienza. No, l'ho già messo. Questo è entrato e non c'era la porta, capito? Sicuramente di notte è entrato e ha visto, ho iniziato a rosicchiare, a fare tutto qua. Allora adesso non c'è più, buttati in campagna ai corvi, alla Germania, ai golbi. Io sono su Romagna, ho i gabbiani, mi si mangiano il giusto. E vabbè, che c'è rimasto Gianni, riprendi. Stato tra un po', vabbè tra un po' ancora no, sono le 8, andrò via da qua. Riprendi già. Sì, a me è l'aria libera, lì sta meglio. Vabbè, il cane si sa che sta meglio all'aperto, c'è poco da fare. In casa sta bene, si ambienta, ma quando è in campagna corre, fa. Vabbè, Filippo adesso è grandetto anche. Quanti anni c'ha, Claudio? 9 ne ha fatto ad agosto, 9 anni già. Aspetta. E passa il tempo, il mio ne ha 6, ma deve compiere 7, e vabbè, passa il tempo, vabbè, ma se un cane è trattato bene abbastanza, ce n'è uno vicino a casa che ha 16 anni, addirittura lo deve prendere in braccio per portarlo a fare i bisogni, lo mette nell'erba e lui fa il bisogno, a volte si sporca tutto perché non si sposta manco quando fa la cacca, non si sposta e si sporca tutto quanto, si impasta tutto, lo devo togliere subito in fretta perché sennò si sporca addosso. Però cavolo, è grande, c'ha tutta la barba bionda. Vabbè, ma mio da 16 anni ho già, mio può darci un altro anno, ma già sta bene, un po' acciaccato, 2 settimane ho la pastiglia per le ossa, per riportare le ossa. Cane lì non è che dura 16 anni, no? Massimo 10, 11 ti può fare, ma non di più, proprio se il formanetta, altrimenti ce n'è che anche 8-9 anni e poi se ne vanno, muoiono di infarto, capito? Non muoiono di malattie, muoiono di infarto, non regge più il cuore, infatti Filippo già quando corre, che si mette a giocare, già subito viene la fanno e si bosa, si blocca proprio in terra, si corica, poi quando si riprende si rialza, perché non ce la fa più, capito? L'interessante è che non stiano al caldo, quando il caldo li fa male, quando sono così che soffrono di queste cose il caldo li fa male, e anch'io lo porto a orari freschi, perché quando c'è caldo il cane soffre sia per le zampe che l'asfalto, non è il caso tuo, ma l'asfalto qua è caldo, ti brucia le zampe, poi anche perché gli fa male il caldo, i cani soffrono molto il caldo, sono sempre la lingua acuta. Quando ti muore il cane, qualsiasi tipo di animale, che ce l'hai tanti anni, che lo vedi ogni santo giorno, per anni e anni, è un colpo basso, Tu, lascia perdere, mamma mia, siamo andati, allora, quando è? A luglio abbiamo fatto il veterinario, perché gli ha tolto due denti, due incisivi, che erano marci, capito? C'era sempre questa carico pesante eccetera, e quindi ha trovato il veterinario che era tutti, gli ha fatto l'anestesia, morto, magari Filippo morto, per la brandina, la lingua fuori, con la lingua tutta fuori, ha giudito, mamma mia ragazzi, cosa vuoi ragazzi, non volevo l'ora che si riprendesse, cazzo, fate vedere, ma ancora c'è, ma mi sta facendo male, cazzo, ma sta battendo fuori, cosa è? Per forza si è addormentato, sembra morto, vedi che non si muove, se ne vuole prendere i denti. Ma infatti anche a Luna, poverina, quando stava bene, che è stata una settimana senza mangiare, senza bere, l'aiutavo io a bere, ma così, ma non niente, no, ormai era andata, che mi ha iniziato a vomitare sangue, poi l'ho portata, non ce la faceva più, gli ha fatto un'anestesia, solo da lì l'ha crepata. È pesante, infatti lui è stato un paio di giorni che era tutto moscio, tutto... Già si alzava a mangiare, a bere, usciva fuori, però piano piano camminava, capito? Ci ha messo un paio di giorni. più nel riprenderci. Così è, però purtroppo si nasce, si muore, noi siamo in ricchia, vai già. Ehi, sentirete sotto il fondo le canzoni, e c'è l'era che sta cantando, io non avevo gana a fare. Gli animali hanno una vita corta, qua, poi dipende anche gli esseri umani, dipende da come se la giostrano, poi c'è quello che mai si ammala, giovane, è un casino. Purtroppo così, si muore, si nasce, si muore. Dipende sempre la vita come percorre, se c'è malattie, tutto gatto, ci sono, quando io c'è ratiti il gatto, non si è mai ammalato di nulla, mai, è morto di vecchiaia, camminando piano piano, piano piano, poi non verrà fatta più dura lì. Era vecchio, proprio ci aveva 13 anni, ci aveva quando è morto. E ce l'avevo da quando aveva 2 mesi. Ma non so che me l'aveva dato Claudio, ratiti. Aveva dato la sorella di Rando, quello che aggiustava le moto, ti ricordi, ha portato verso la sorella. Ah, la sorella Gavina, quella un po' guata o l'altra migliore. No, quella che adesso è morta, quella che è morta sotto anestesia all'ospedale, che aveva fatto l'anestesia e ci è rimasta. Oh, claro, quando muoio io faccio piazzare a centro capozza, eravamo a 5. Centro Bara, loro lì rubaro, mi siete in grado. No, centro capozza, cosa? Centro capozza. Centro capozza. A chi con la macchina di giù per già? C'è pure la capozza, ma non fa massa lì. Non fa massa, attacca l'orgoglio, magari lui attacca, a voi la fa massa. No, cra. Allora, un giallo verde, di buono, attaccato al gormicciolo, allora già mangiava la trimassa. Veramente ripissamenti, boh. Vabbè, che già, comunque c'è la specie, una sorta di cosa, no? Di, cos'è, acciaio, boh. Sì, c'è lo zinco, c'è, cosa c'è, boh? Attacca in chivi, allora, ma si atterra. E rubalo gli ha... Fanno rubalo uno con i bisogni, boh, non mi rubalo. Beh, di bisavetti va bene. Ma è il radiale o mentre è buono? A Capo in Trento? Il radiale è buono a culo di scimmia, a crack. Radio va bene. Allora, ottimo con la truppa. Iaia, vabbè, dai, mi devo scherzare già tanto. Ce n'è un po' per tutti, mi. Chi più, chi meno. Vabbè, come si dice, meglio godersela. Finché si può, ecco, quando non si può più, pazienza. Ti ha pregata. E tu già al mare non stai andando? Al mare Gianni, al mare quindi. Oh yeah. Che non ti non intendo nulla, la miscia che intendi. Ma si sente? Sì, papà, si sente, non molto. Ma qua si sente un bel, a chi attende un bel ritorno? Cazzo, ma non penso che in casa non fa fare così, Uia. Oh, mi assento un attimo. Ah? Ma chi è sta cantando? Manuela o la tua compagna? Elena, via, bacia le volte, non si sa mai, ti tocca a Iana. Emanuele è partita la scorsa settimana, là, lunedì scorso. Sì, per le ferie anche per lì, era di rientro domani. Domani si riprende. Abbiamo preso 6 giorni ad agosto e altri 6 da presi a settembre, dal 1 al 5, al 6, domani rientro. Vabbè. Va bene Gianni, dai, anche io mi allontano, vado a attaccare i rigatori, mi sistemo due cosette, poi mia moglie mi ha detto che Filippo ha fatto i bisogni, quindi adesso pulisco e poi già se ci siete rientro, ok? Ehi, ci sentiamo, anche sto chiudendo che devo andare, dai. Buonasera a tutti, quello ti permette. Ciao Luca, ciao a tutti che ci ascolto. Ciao, alle prossimine. Ciao, riascoltiamo, ciao a tutti. Ciao.